Quello di Christine Mattà è uno sguardo di speranza che parla di un'Arcadia popolata di ricordi in cui il vento mormora il crepuscolo e tesse desideri di abbandono dentro un'inquietudine che vibra come un canto che diventa un tutt'uno con il cielo dentro l'incertezza di un risveglio improvviso. Ecco, dopo questa introduzione, la domanda che viene immediata da porre a Cristina è: ci vuoi spiegare un po' il titolo di questa tua silloge, Il cerchio interiore? Certo, faccio anche a meno, penso, del microfono. Siamo meglio il microfono. Sì, io non so se lo tengo giusto. Sì, sì. Sì? Prego. Ok, allora appunto il cerchio interiore, mi viene prima in mente la figura del cerchio, che è una figura geometrica che non ha né inizio né fine, no? E che per esempio per i cinesi è il qi è l'energia vitale che loro paragonano a un fiume che scorre, che è praticamente tranquillo fino al mare. Se invece gli si pone un ostacolo improvviso e questo blocco nel flusso armonioso viene interrotto e può causare disastri. E quindi anche nel flusso interiore nostro, qui mi viene proprio in mente l'analogia, quando dobbiamo superare una crisi, cioè un blocco, è facile che ci sia un momento di sbandamento in cui abbiamo bisogno di aiuto, anche di aiuto esterno a volte, quando non ce la facciamo da soli. E questo cerchio, che viene poi da me descritto nella prima poesia, sembra che diventi come un blocco di ghiaccio che si stringe. Invece, quando di nuovo siamo in grado, insomma, di aprirci, allora il cerchio può anche allargarsi per accogliere ovviamente nuovi impulsi. Goethe diceva a proposito, cioè lui dice che prägte Form die Leben sich entwickelt, cioè forma impressa che si sviluppa vivendo. Anche questo è un bel simbolo, perché in fondo questo cerchio interiore ci accompagna dall'inizio fino alla fine, e molto probabilmente, se è da vedere come energia, rimane anche oltre la nostra vita. Cioè l'energia non muore con noi, no? È come il discorso dell'elettricità, che non si sa da dove viene e che cosa è realmente, però c'è. E quindi appunto in tutte le poesie c'è anche un po', sì, questo poi mio figlio lo spiegherà, c'è anche un accostamento al taoismo, che poi lui saprà spiegarvi meglio. E leggendo due versioni in inglese che ha fatto lui di due poesie, facciamo prima leggere, sì. Chris? Sì, io mi sono preso appunti, non sono molto bravo a improvvisare. E vorrei fare prima una premessa, perché potreste chiedervi cosa fa questo guarda a parlare di taoismo, cioè che qualificazioni ho, a parte essere il figlio della Cristina Mattà, della dottoressa Cristina Mattà. Sono laureato in lingue orientali, vivo in Cina da quasi 20 anni, e mi occupo anche di arti taoiste, nel senso che insegno un'arte marziale interna chiamata Wing Chun in Cina già dal 2014. Ora, io ho tradotto due poesie su richiesta di mia madre. La prima, per me l'ideale era che prima venisse recitata in italiano e poi in inglese, però partirò subito con l'inglese. E poi vedrò quello che io ci ho visto dal mio punto di vista, dalla mia esperienza e dalla mia conoscenza relativa, comunque limitata, del taoismo. The circling radiant being was frozen somewhere, and between the questioning dreams only a tiny sparkle flashed, quickly blurred by the day. The spinning, glowing being wandered remote. and unstable paths got entangled in the images of the unthought, and nourished the dark lake of its tears. What could be so distant? An angel might guide him. Whom would his encouragement ever reach? Well, non so se la mia pronuncia era... Vabbè, non siamo in America, però... È buono. Comunque, a me il poema ha trasmesso... Questo poema ha trasmesso... L'ho scelto perché ha trasmesso in me un forte senso di ricerca, di smarrimento e di tensione, tra movimento e stasi. Il lasciarsi trasportare dal flusso dell'esistenza e il tentativo di resistervi. La sensibilità taoista emerge nella circolarità del tutto, nell'idea di immagini ineffabili, nell'acqua come simbolo emotivo e nella percezione del cammino come qualcosa di mutevole e incerto. Il tutto suggerisce, all'inizio, la sofferenza di questo essere, suggerisce che non è ancora completamente in armonia con il Dao. Il Dao può essere... Il Dao in realtà è difficile parlarne, già in un'opera attribuita all'uomo vecchio, Lao Tzu, si dice nel primo... È un libro scritto a poesie, praticamente, un libro scritto molto in maniera molto ermetica, molto sintetica, che può essere interpretato in tantissimi modi. Nel primo paragrafo si dice il Dao di cui si può parlare non è il Dao, quindi cercherò di dare una mia interpretazione del Dao. Il Dao è la via, è la fonte di tutto quello che esiste. E per i cinesi, per la filosofia taoista, perché c'è anche la religione taoista, c'è anche la filosofia taoista, noi veniamo dal Dao, tutto viene dal Dao e rimanendo in armonia col Dao, seguiamo la legge naturale dell'universo. Ora, in questa poesia c'è una forte tensione, perché sembra che l'essere o il personaggio sia intrappolato nel pensiero, nell'attaccamento, nella paura di un cambiamento. Però la vita è cambiamento, il Dao è cambiamento, cambiamento in circolo. Un cambiamento che in realtà non è un cambiamento, è soltanto la sua legge, è la legge del cambiamento. Tutto cambia, sembra in superficie, ma in realtà non cambia niente. Si ripete, si ripete, si ripete, si ripete in eterno. E infatti il cerchio è un simbolo molto importante del taoismo, non c'è qua un proiettore, però questa è l'immagine che io mi sono segnato come, diciamo, segnalibro. Viene da una scuola di buddismo zen. Poi, non vorrei farla troppo lunga, io ho segnato tre punti in questa poesia che mi hanno colpito. Il movimento circolare, il Tao, il vuoto e l'inconscibile e il viaggio e l'incertezza. L'essere circolare radiante richiama, come dicevo, il concetto del Tao, che è spesso descritto come un flusso continuo e naturale. Come ho detto, il cerchio è comunque una forma simbolica essenziale nel Tao e rappresenta il Wuji, che è lo stato di potenziale infinito, e il Tai Chi, che è la dualità, tra yin yang, femminile positivo, passivo attivo, nero bianco, ombra luce. E questa dualità deve essere in equilibrio. Tuttavia questo essere congelato, questo viaggio, questo cambiamento, sembra essere congelato da qualche parte, un'interruzione innaturale di questo movimento, che nella sua natura è destinato a mutare, a cambiare, mutare, finché un ostacolo. E quindi c'è un ostacolo in questo flusso spontaneo del Dao, come viene comunque in questa poesia all'inizio, was frozen somewhere, era congelato da qualche parte. Il congelamento, quando qualcosa è congelato non si muove, gli atomi dentro anche sono immobili. Quando qualcosa è congelato è bloccato, è fermo, è come una... Poi il secondo punto è il tema del vuoto dell'inconoscibile. Questo essere che si muove in sogni interrogativi, evocando un'idea taoista, che la realtà è spesso oltre la nostra conoscenza concettuale, comprensione concettuale. Nel Tao Te Ching, che è uno dei testi del taoismo filosofico, Lao-tzu si sottolinea che la vera conoscenza si fa dall'esperienza, è esperienziale. La vera conoscenza non viene dai libri, la vera conoscenza è esperienziale. Colui che sa non parla, colui che parla non sa. Tao Te Ching. Qui il protagonista comunque sembra muoversi in un paesaggio interiore fatto di immagini e percezioni che sfuggono a questo pensiero razionale, quindi immagini del non pensato, e che fa eco comunque all'ineffabilità del Tao. Il terzo punto è il viaggio all'incertezza, l'essere che vaga su sentieri remoti e instabili, che è un chiaro riferimento all'imprevedibilità della vita, dell'esperienza personale. Non si sa mai dove ci si trova, non si sa mai improvvisamente dove si è finiti. E quindi nel taoismo il viaggio non è lineare né predestinato, è una serie di cambiamenti, adattamenti continui. Adattamenti che bisogna accettare. L'accettazione del Tao, accettare. Anche nel Wing Chun, che è un'arte taoista, perché poi le arti marziali si dividono in arti taoiste e buddiste, anche nel Wing Chun abbiamo molti modi di dire, molti proverbi per così dire, molte indicazioni. Uno è non essere troppo, don't be greedy, don't be afraid, non essere troppo intraprendente, non voler troppo, ma non avere neanche paura, stai nel mezzo. Il mezzo è anche uno dei concetti tipici della filosofia del pensiero taoista, del pensiero cinese. L'instabilità poi è una caratteristica naturale dell'esistenza che non deve essere combattuta, accettata come comunque parte del flusso. Quindi accettare è il messaggio principale che io almeno ho visto in questa poesia. Mi fermerei qua. Nel senso comunque che sono aperto a domande, se ci sono domande. E poi puoi leggere la versione italiana? Ecco, adesso. Per la versione italiana c'è la Maria Pia. Facciamo un salto. Grazie, perché mi hanno detto che devo usare il microfono per questioni di registrazione. Scusa, però volevo permettere una cosa. La versione italiana e quella tedesca, e inclusa quella inglese, si discostano leggermente. L'essere luminoso e rotante percorreva vie ignote e perigliose. Si perdeva in immagini dell'impensato e nutrì l'oscuro lago dei suoi pianti. Cosa mai potrebbe indicargli il suo angelo tanto distante? A chi mai potrebbe giungere il suo conforto? Ma era la traduzione? Sì. La versione. E poi c'è la seconda. Ma, Leggo anche la seconda? Sì, sì. Penso di sì, dai. Anche perché non so se sto dicendo una stupidaggine, però quando io ho letto questa raccolta di poesie ho avuto proprio la sensazione del cerchio, no? Mm-hmm. E del, sì. Nel senso che secondo me si potrebbe cominciare da un punto qualsiasi, mm-hmm, della raccolta e leggere, oppure saltare da una poesia, da una pagina all'altra, e il senso profondo non si perde. Quindi ho interpretato bene, ecco. No, sono contenta di aver capito, allora, sì, di aver colto il senso. Sì, sì, sì, di sicuro. Danza nella luce del sole il granello di polvere. È come un raggio che misura l'eternità, il cui nucleo fluisce unendosi senza fine all'eternità, agendo in modo ignoto nell'immagine multiforme, come un'inspiegabile luce che di tutte le cose le forme comporti. Mi riporta le mie forze nel momento di impotenza, per un solo momento. Il miracolo è fatto. Un granello di polvere, di luce, avvolto, si fa sguardo che alle stelle è rivolto. E qui c'è anche la versione inglese. E lì c'è anche la versione inglese. Dopo questa interpretazione cercherò di... È il mio lavoro, no? Non sono brava, è il mio lavoro. Dancing in the sunlight, a particle of dust, like a ray measuring eternity. Its core, flowing endlessly, merging with infinity, moving instinctively in its multiform image. Just like a mysterious light that carries within it the shapes of everything. It brings back my strength in moments of powerlessness. And for just one moment, the miracle happens. A particle of dust wrapped in light becomes a gaze turned into stars. Rende anche in inglese. Certo. Facciamo la bomba molto rapida. Dal punto di vista taoista abbiamo questa unità tra microcosmo e macrocosmo. Nel taoismo comunque si parla sempre che il piccolo contiene il grande. E non solo nel taoismo, anche recentemente nella fisica quantistica e nel concetto di entanglement. Le particelle si influenzano a vicenda, in realtà non sono connesse, sono uno. Anche lo spazio in mezzo, secondo la teoria del entanglement, è uno, quindi l'informazione non viaggia, è simultanea. Nel taoismo ci sono vari passi, sia nello Zhuangzi sia nel Tao Te Ching, in cui si parla, in cui praticamente si esprime questo concetto che abbiamo un microcosmo, anche il nostro corpo è un microcosmo, e ci sono anche pratiche taoiste vicine a arti marziali interne, di alchimia interna, che parlano di questo microcosmo. In qualsiasi cosa, anche nel granello di polvere, c'è un universo. So che suona molto banale, tipo i monaci tibetani, però effettivamente nel taoismo è un concetto molto presente, che il micro rispecchia il macro, è come se fosse tutto un ologramma. Il granello di polvere che danza nella luce del sole poi rappresenta, ripeto, il piccolo, l'infinitesimale, che è tuttavia parte integrante dell'infinito, l'eternità. Questo richiama anche il concetto del Wu-Wei, cioè quindi l'armonia tra le piccole e grandi forze dell'universo che fluiscono senza sforzo. L'idea che il nucleo del granello fluisca e si unisca all'eternità rispecchia il Tao, l'origine e il flusso eterno di tutte le cose. Il Tao non agisce e tuttavia nulla non rimane compiuto. L'immagine multiforme che riflette la trasformazione continua, il simbolo centrale del Tao. Anche la luce è un simbolo del Tao. La luce è spesso interpretata come il flusso vitale del Tao, che illumina e sostiene ogni cosa, anche in un piccolo granello. Nella sua semplicità può incarnare l'intero Tao, poiché comunque ogni parte contiene il tutto. Come un ologramma, se si prende un'immagine olografica, si taglia. In ogni pezzo di quell'immagine c'è tutta l'immagine. È anche una, secondo me, è la mia opinione, secondo me anche un'ulteriore conferma di questo pensiero del taoismo che tutto è contenuto in tutto, è il primo passo del Tao Te Ching, che dice che il Tao crea l'uno, l'uno crea il due crea il tre crea le 10.000 cose, le 10.000 cose è tutto. Si potrebbe parlare anche del Big Bang, che è l'uno, e poi dal Big Bang. Si possono fare tantissimi paragoni anche con le religioni occidentali, inclusa quella cristiana. Comunque questa frase, secondo me, anche di questa poesia descrive che tutto ciò che esiste è una manifestazione del Tao e ogni elemento è collegato all'origine universale, che è il Tao, e contiene implicitamente l'essenza del tutto. Vabbè, dai. Domande? Altrimenti finché pensano alle domande io leggo qualcos'altro, certo, perché è talmente bello questo libro che... io penserei anche un audiolibro, perché è molto interessante. Sceglie quello che vuoi. In un senso ogni parte, puoi prenderla da ogni parte. Esatto. Ogni parte. E una di quelle che mi ha colpito è questa. transitoria è la notte tormentata, di cui fanno parte smarrimento e grovigli. Fuggitivi sono i giorni e le ore con tutto il loro avere e volere. Duraturo è soltanto ciò che non si è compiuto. Fuggitivo è ogni dovrei e debbo. Ciò che dura è soltanto l'intimissimo sapere che in tutti i giorni e le ore fuggenti ci può sostenere con la sua protezione, facendosi cerchio a noi intorno. Si riferisce al cerchio. Io vado avanti, eh? Vai, vai. Ovunque è in agguato l'insensato strisciante nell'apparente senso acquisito. Dappertutto nascono i germi dell'orrore travestito nella grigia quotidianità. E le ansie ovunque volteggiano nei distratti pensieri. Violenze minacciano dappertutto che nessuno può fermare. Dove mai rimane la forza che tutto sana? La forza che un tempo provai in tutta profondità e l'anima dove ritrova il suo antico splendore? Inquieti i sensi vagano e vanno incontro alla sera con nostalgia. Non so da dove sia venuto questo sentire dei sogni, così dolce e riconciliante, che tenta di radicarsi in me e che rende leggero ogni peso. Brava. Fra libri polverosi e le lettere da tempo dimenticate, scelgo e credo di conservare ciò che vita mi sembra, pur sapendo che mi sfuggirà in un cercare senza fine e senza che si possa del tutto svelare. Fra i vecchi pensieri cerco le rovine del tempo decaduto e trovo solamente la muta nostalgia, questo insuperabile vizio che da tempo ho rimosso e già quasi domato. Ma come dei boccioli nascenti su un vecchio tronco, mi appare ancora lo stupore nel mutamento, il segreto miracolo nell'esistenza circolare. Non so se loro intanto hanno pensato alle domande. No, no, no, adesso fa un intervento sera. Guido. No. Devi andare. Mi dica, sì, sì. Ma allora no, tranquilla, legga pure le poesie. Sì. No, per andare via. Ah no, io stavo andando così. Sì, lo stavo scegliendo. A caso? Sì, sì. Sì, beh, la circolarità infatti è tema che ricorre, no? Quindi... Se ne volete un'altra? Sì, sì, sì. No, io mi scuso veramente con tutti voi, ma purtroppo sono qui prestata un attimo dal... Giorni ed anni sulle reti teneramente sottili e setose di una desolazione. Luccicano nella tarda luce sulle ali del tempo, come il nettare depositato nei mille fiori della malinconia, condensati in un dolce essere senza desideri. Ed il vento tra gli alberi mormora, sussurrandomi come suono di una lingua che quasi scordai fra la notte ed il sogno del giorno. Complimenti davvero, è un onore. Eh beh, dai, mi ha fatto un gran piacere. E sempre a disposizione. Conosciuti. Sì, sì, esatto. sempre a disposizione per lei. Perfetto, grazie. Prego. Io non posso fare la dedica poi al libro, ma la firma, perché la dedica sì, no, un problema. Lo lascio e poi me lo... Te lo faccio firmare. Sì. Grazie. Okay. Ma scusate. Io cosa dico? Non so. No. Non so cosa adesso dice. C'è Guido che vuol dire una cosa. Ecco, Guido. Sono Guido. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Grazie Maria. E buon lavoro al teatro. E sono Guido, ho conosciuto Cristina per il lavoro, io avevo fatto la scuola di restauro a Firenze di ceramica, poi rientrato nel sì. Trentino, avevo pochissimo lavoro e per una casualità attraverso un'altra nostra comune amica mi sono trovato insomma sul cantiere da Cristina e poi è diventato il mio lavoro diciamo più importante, per cui io sono qui più che fare domande alla Cristina, sono qui a ringraziarla anzitutto vabbè, di queste parole, di queste sintesi di un'esistenza della vita che è veramente straordinaria, ma ringraziarla perché lei mi è stata veramente di stimolo anche nella mia diciamo carriera operativa, perché a un certo punto da semplice diciamo, aiutante o collaboratore a un certo punto mi ha detto Guido, vai, deciditi, mettiti sulla ditta, parti, ti passo i lavori io, ti seguo io, quindi mi ha spronato. Poi l'altro grande sprono che lei mi ha dato, che mi ha dato è stato quando in uno dei tante nostre pranzi o cene che facevamo a casa mia ha visto le mie ceramiche. Io come restauratore ceramica mi ero messo a fare delle ceramiche, ma così più per... e lei vedendo queste ceramiche, c'è qualcosa che non va, vabbè. Proviamo a cambiare il microfono. Sì, tanto ci sente anche se... E vedendo queste ceramiche mi ha detto, Guido, tu devi fare una mostra, devi andare avanti anche in questo settore. Io ho detto no, anche no, va bene, offro io il mio studio, lei mi ha offerto il suo studio e la mia prima mostra di ceramiche l'ho fatta nel suo studio. Martina, tu che ti ricordi le date, che se hai piena memoria, 90, sarà stato primi sì. anni 90, sì, 92, ecco, sì, 92-93, e diciamo che da questa mostra qua mi è venuto lo stimolo veramente ad andare avanti, ma poi siccome ci si vedeva sui cantieri e anche in altri momenti, poi lei è sempre stata al mio fianco a capire e a spronarmi in questa diciamo mia avventura, perché poi a un certo punto chiuderò addirittura la ditta del restauro per dedicarmi totalmente all'arte e della ceramica, che è stato un piacere, vi dirò, e sto continuamente trafficando, però è anche un po' un disastro, come voi sapete, non per piangere, ma gli artisti non sono considerati. Ecco, ma mi va bene lo stesso. Ecco, per cui io sono qua principalmente proprio anche a dire veramente un grazie, e l'abbiamo sempre chiamata la nostra maestra, ma è stata maestra non soltanto sui cantieri del restauro, anche maestra nella vita, e volevo infatti... E concludere anch'io con quelle parole che adesso della poesia che ho letto prima, no? Che appunto di questo intimissimo sapere, no? Perché effettivamente la sapienza viene dalla conoscenza, e la conoscenza viene se hai stimoli per arrivare alla conoscenza. Ecco, quindi grazie Cristina. E grazie a Sclaunici che ha curato anche questa serata. Vuol dire qualche parola? Sì, qui ci sono due miei ex collaboratori, cioè Guido e Martina. E praticamente io ho dei nostri lavori, ho anche dei bei ricordi, perché il restauro, per esempio il restauro di un affresco è una cosa che rimane nel tempo, che si può andare ancora a vedere, e questo ti crea una soddisfazione interiore che magari altri lavori non danno. Poi chiaro che gli occhi, insomma, sono quelli che anche forse anche sofferto, però devo dire che il restauro d'arte è un'esperienza che forma anche il modo di vedere le cose, no? Cioè, perché effettivamente è importante avere, come dire, la vista, la visione, come sintesi mentale che aiuta anche a vivere, cioè, tutto sommato. E poi la poesia, sì, per me era sempre forse una mia, come dire, secondo lavoro, e che quando lavoravo come restauratrice potevo fare solo nel tempo libero, però tutto sommato lo facevo. Poi ho fatto delle recensioni degli artisti, ho avuto contatti con un editore tedesco, allora era il tedesco della DDR, no? E questo Thiemebeck Lexicon era molto famoso, cioè questo e il Benezit francese erano i migliori dizionari sull'arte. E lì effettivamente sono riuscita a piazzare diverse recensioni. Poi, con l'annessione della DDR alla Germania, questa casa editrice è stata venduta, rivenduta, e tutto è andato a finire, insomma, nelle mani, diciamo, del capitalismo, come tante altre cose. Ecco. Comunque, sì, mi fa piacere aver appunto avuto anche una lettura bella, e anche ciò che ha detto mio figlio rispecchia infatti anche il mio punto di vista, per cui il taoismo per un periodo l'ho proprio approfondito perché mi aiutava a superare dei momenti difficili, questo è vero, perché nella vita bisogna sempre avere, diciamo, la cognizione di che tutto è relativo, cioè tutto passa, magari tutto ritorna, però è così, insomma. Cioè dobbiamo affidarci a quello che è la vita, e non perché opporsi non va bene. Cioè io l'ho sperimentato quando ho iniziato a avere il mio problema con la vista, perché per un primo periodo ero veramente scioccata dal fatto di aver perso la possibilità di leggere e di scrivere, e per cui non vedevo più una via d'uscita. Dopo sono riuscita pian pianino a dire vabbè, insomma, se succedeva diverso tempo fa, anni fa, era peggio, no? Cioè alla fin fine dico adesso non ho più 40 anni, ma ne ho 80, e bisogna accettare quello che, giorno per giorno, quello che ti porta a vivere. Cioè, in qualche modo, appunto, è vivendo proprio il carpe diem che si riesce a farcela, diciamo così. Ecco, io qui ho detto tutto, se vuoi aggiungo qualcosa. Sì. Le poesie di Cristina sono piene di suggestioni e di immagini, assieme a suoni profondi e a colori. Provo a leggerne ancora due. Giorni ed anni sulle reti teneramente sottili e setose di una desolazione. Luccicano nella tarda luce sulle ali del tempo, come il nettare depositato nei mille fiori della malinconia, condensati in un dolce essere senza desideri, ed il vento fra gli alberi mormora sussurrandomi come suono di una lingua che quasi scordai fra la notte ed il sogno del giorno. Ve ne leggo ancora una. L'intuizione che soltanto nella danza della notte, nei suoi toni e colori, si lasci custodire il miracolo segreto del silenzio che canta nell'essere requieto, laddove esso vibra come un canto del sogno è liberato da ogni peso o dolore e non sa più nulla del tempo e di transitorietà. È forse una musica che non ha ieri e non ha domani, così mirabilmente staccata nella visione della sua realtà. Un grosso grazie a tutti per la vostra presenza. Benissimo. Ciao carissima, sono emozionata di vederti qui. E le poesie che abbiamo sentito sono, io li chiamo i fili d'argento della nostra vita. E grazie quindi di aver annodato questi fili d'argento anche qui a Bolzano. Noi ci conosciamo da Trento. E per me avere potuto partecipare a questa iniziativa a Bolzano è la prova che i fili d'argento si possono sempre annodare. Grazie. Grazie. Sì, dai. C'è qualche domanda? Qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Cristina? Prego. Sapere in che ambiente sociale e culturale si è affermato lo zen e il taoismo, che per io sono purtroppo assai poco informata in merito. In che ambiente sociale si è sviluppato lo zen e il taoismo? In che epoca, per quale motivo, in seguito a quale stimolo? No, quello penso che devo rispondere io. Lo zen è per così dire un ramo, lo zen è un ramo del buddismo. In Cina si chiama Vachan, è partito in Cina, è già pronta. Quando è arrivato in Giappone il buddismo, così come le scuole, i rami del vario buddismo, soprattutto quello Mahayana, quello del grande veicolo, ha dato vita a molte correnti. Lo zen è una corrente che ha influenzato anche l'arte, la scrittura, la calligrafia. Il taoismo anche, o è dire la stessa cosa? No, sono due cose differenti. Il taoismo, allora, hanno similitudini, qualcosa. Però, e poi il taoismo come filosofia, perché c'è anche il taoismo come religione, il taoismo come filosofia è una filosofia cinese, è nato in Cina. Non si sa quando, perché comunque i testi principali del taoismo sono quei due che ho menzionato, il Dao De Jing e il Zhuangzi. Il Zhuangzi è una raccolta, in realtà è un caos, è una raccolta di racconti di cui probabilmente i primi sei sono attribuiti a un filosofo cinese, ma gli altri sono stati, tra l'altro ce n'erano molti di più, molti sono stati eliminati e sono entrati in questa collana che si chiama Zhuangzi. Però il taoismo come filosofia, che è quello di cui parlavo, è abbastanza differente dal taoismo come religione. Poi sì, il taoismo come filosofia ha alcune similitudini con lo zen, però lo zen è buddismo. Poi il concetto del non attaccarsi, del non attaccamento, il concetto del non attaccamento potrebbe essere il concetto taoista del wei, quello di non essere, di non attaccarsi, di eliminare gli otto sensi. Nel buddismo si parla di rinunciare a, adesso la memoria mi sfugge un po', però il concetto del buddismo è che è il buddismo originale, secondo me, che è quello, il primordiale, quello che viene praticato in Tibet, anche se è il lamaismo, in Thailandia, differente da quello che viene praticato in Cina, Corea, in Giappone. ha quel concetto del non attaccarsi, del, non, del, non di, del superare il desiderio che è causa di sofferenza. Ma questo per la gente comune o per i monaci, gli studiosi? Bene, in Thailandia la gente comune invece che fare servizio militare spesso vanno in un monastero per un paio di anni. Quindi, però comunque c'è anche la differenza tra buddismo del grande veicolo e quello del piccolo veicolo è quello che per il grande veicolo è proprio una religione, basta pregare e ti salvi, mentre il piccolo veicolo è più incentrato, è più un misto tra filosofia e psicologia sociale. Trovano seguito oggi nella società d'oggi, la Cina presta attenzione, il cittadino cinese comune è attratto? Sì, c'è stata una rinascita, soprattutto dovuta anche comunque al fatto ai cambiamenti economici che sono avvenuti negli ultimi 20 anni. C'è stata sicuramente una rinascita, un ritorno un po' alla tradizione, anche se la religione più praticata, se guardiamo in termini ufficiali si troverà buddismo, ma in realtà è l'Islam, perché perché in regioni come lo Shaanxi, nello Xinjiang e la minoranza etnica degli Hui sono musulmani, poi loro praticano, però sì, c'è un ritorno un po' al buddismo, cioè nelle grandi città soprattutto da quello che è comunque soprattutto negli ultimi anni. Io quando mi sono recato in Cina nei primi anni del 2000, non, onestamente non ho visto molto. Ci sono i templi buddisti, certo, li hanno ricostruiti perché vabbè, sappiamo la storia, quello che è successo, li hanno ricostruiti, e c'è stata anche da parte di vista del governo comunque un supporto a ristrutturare e conservare e lanciare un po' la tradizione buddista. Comunque sì, il buddismo come religione sta prendendo lentamente, sta diventando sempre più... Io stesso conosco molti che si definiscono buddisti in Cina, però è un buddismo che non è il buddismo che non mangi carne, non è il buddismo che non è il buddismo del piccolo veicolo, è il buddismo Mahayana, che è quello che poi è il buddismo tipico anche in Corea e in Giappone. E lo Zen è una corrente in realtà del buddismo del piccolo veicolo, è una, se non mi ricordo male, è comunque un segmento del piccolo veicolo, del buddismo del piccolo veicolo, lo Zen. Perché per esempio a Merano, ai giardini Traunstorf, c'è uno spazio in cui propongono un giardino Zen, che è poi l'occasione. Sì, come dicevo, è formato da ghiaia in pratica, esatto. Non so se ci sia dentro qualche forma accennata, e uno rimane un po', diciamo, si pone la domanda del, certo, significato dell'invito che viene fatto. Si cerca di ricreare nei giardini Zen, si cerca di ricreare la natura incontaminata e gli equilibri nella natura, quindi soprattutto anche una grande importanza ai ruscelli, all'acqua. Certo, come dicevo, comunque lo Zen ha influenzato comunque la pittura, la pittura e l'arte, e anche il giardinaggio, perché i giardini Zen hanno una loro caratteristica, soprattutto anche dal punto di vista anche del, adesso in giapponese non mi ricordo come si dice, ma vengono costruiti comunque anche in base al feng shui. Ma non è lo Zen è più praticato in Giappone, d'accordo? Lo Zen è Chan, in Giappone si chiama Zen, in Cina si chiama Chan. Ah, ecco, sì. Però è più famoso è la versione giapponese, però hai ragione. Sì, anche di l'amore per la natura, i giardini. Ma l'amore per la natura, allora, l'amore per la natura viene soprattutto dalla tradizione taoista in Cina. E in Giappone probabilmente dalla tradizione shintoista, che vede che vede l'anima in qualsiasi cosa. Nella religione shintoista ogni cosa, incluso il sasso, è per quello che anche nei giardini zen si cerca di dedicare tutta la natura, tutto l'universo praticamente, il Dao, io lo chiamerei il Dao. Ma poiché nello shintoismo comunque qualsiasi cosa è animata, incluso il sasso, incluso qualsiasi cosa, quindi sì, da quel punto di vista anche vedo comunque similitudini tra lo zen, tra lo shintoismo e il taoismo, da quel punto di vista, perché comunque il Dao, che è l'origine da cui tutto viene, inclusa l'energia di cui parlava mia madre, per me ha tutte le cose. Poi forse uno stretch un po' più troppo grande, in India viene chiamato il Brahma, l'atma, il respiro. Tutte le cose sono permeate da questo respiro. E questo potrebbe essere anche un'ulteriore magari spiegazione per cui comunque un concetto che definito in maniera differente, teorizzato in maniera differente, quello della reincarnazione esiste in molte tradizioni orientali, in molte religioni orientali e filosofie. Religioni. C'è uno spirito che vive in eterno, diciamo, e che emana dalla persona e può rientrare. Io lo definirei come una goccia d'acqua. E io lo definirei semplicemente come una goccia, l'acqua, lo definirei come l'acqua. L'acqua effettivamente sia nello shintoismo sia nel taoismo ha una forte valenza. L'acqua, noi siamo acqua. Acqua che quando si muore si torna nell'oceano e poi si ritorna in un altro contenitore d'acqua. La consapevolezza che è quello che forse che è quello che può che è quello che in realtà ricerca lo zen, come ricercano tutte queste varie scuole o sette o rami del buddismo, il risveglio, il capire cosa si è, e quello è quello è capire e comprendere il vuoto. È un discorso un po' lungo, è un discorso che se si inizia stiamo qua fino a domani e non abbiamo probabilmente ancora finito. Io avrei due piccole domande. Due piccole domande veramente brevi. Se ci puoi raccontare qualcosa della tua esperienza con la poesia visiva e poi qualcosa delle carte, delle famose carte illustrate. Sono molto curioso. Sì, ecco, praticamente è uno psicologo che fa adesso, pare che adesso sia diventato abbastanza noto, di Amburgo, si è innamorato dei quadri, dei dipinti di questo mio amico norvegese, che è anche un dipinto suo, la copertina del libro. Uh-huh. E gli ha proposto delle carte che lui usava poi nella psicoterapia. Ora mio amico Manfred ha detto sì, però non lo faccio senza la mia amica, cioè che scrive poesie, se tu puoi allora io contribuisco con i dipinti, lei con la poesia e tu poi fai delle carte che fai vedere ai tuoi pazienti, interpretare il dipinto e magari qualcuno anche che interpreti o faccia commenti alle poesie. E così è nato queste 51 carte, che tutto sommato pare che effettivamente sia stata una novità. No? Dopo io ho detto, vabbè, ma qui le carte non si possono vendere, è un bel cofanetto, no? E allora è nato il libro Mascherade, che c'è stato anche molto d'aiuto Giorgio Cegna, cioè Giorgio, un momento, Pier Francesco. Pierluigi, perché non mi ricordo mai il nome. Pier Francesco. Grazie. Esatto. E la figlia, Giorgia Cegna, che ha scritto la prefazione. E qui appunto ci sono questi dipinti di lui, se tu guardi, e ogni dipinto ha vicino una poesia. La maggioranza di queste poesie, fra il resto, è nata proprio guardando i dipinti, lì per lì, no? Perché io ero talmente presa dalla sua arte che tutto sommato dovevo descrivere in qualche modo. E penso che sia un libro abbastanza particolare, è nato. Cioè proprio, sì, perché questo è un bellissimo dipinto, molto, molto bello. E sì, è anche interpretato, per cui questo anche bilingue, da quello sì, che sì. Sì, esatto. E sì, da, è che è particolare. Io penso che la gente abbia meno difficoltà a leggere quest'ultimo, perché qua da un lato devi guardare il dipinto, cercare di assimilarlo, di capirlo, no? E dall'altro c'è la poesia. Allora, io penso tu abbia fatto anche poesia visiva. Sì. Lì io la facevo, ma l'ho abbandonata perché è difficile che testo e immagine abbiano lo stesso valore. Cioè, a volte prevale l'immagine, capito? E a volte il testo. È per quello che ho lasciato perdere. Perché la parola di per sé ognuno la interpreta, no? E ha il tempo anche di rileggere così. E l'immagine penso che è più, sì, la interpreti, però ti prendi meno tempo, è proprio la prima impressione che conta, cioè piace o non piace. Certo. No? Da una poesia non puoi subito dire piace o non piace, devi leggerla e un po' di più studiarla forse, no? Per cui, comunque, questo è un esperimento abbastanza unico. Cioè, alla fine, è che lui vive in Norvegia. Allora, in Norvegia, di questa mascherata, avrebbero dovuto fare una traduzione in inglese, almeno. Perché in tedesco, come nata in origine, in Norvegia non è che tanti sanno il tedesco. Poi hanno avuto anche brutte esperienze, no? Con la guerra, per cui... Comunque, sì, rimane un documento, ecco, questo senz'altro, e questo è un altro bel dipinto suo. Ah. Sì, perché lui dal figurativo è passato all'astratto e direi quasi a volte meglio del figurativo. Sì, sì. Sì, perché il figurativo ti lega di più, no? Cioè io l'astratto, cioè quella che mi guarda, la mia assistente, mi dice ma io non li capisco, ma tu non devi capire, non ti devi porre il problema, io non lo capisco. Cioè l'astratto è un'altra cosa, tu lo fai, che ne so, in qualche modo agire su di te, no? Sì, è un modo per entrare nella materia. Esatto, esatto. Poi la interpreti come vuoi, cioè il dire non capisco non ha senso per me. Cioè tu cosa dici, perché sei appunto nel campo? No, concordo anch'io, l'astratto ha una sua forza, una sua risonanza che ha un sacco di suggestioni, si porta dentro un sacco di suggestioni che si prestano a... l'introspezione, che si prestano a una riflessione intima, personale, sì. Diversa, il figurativo ti lega di per più, forza di cosa ti porta sul... Sì, ti lega di più in qualche modo, cioè... No, volevo ricordare semplicemente un grande artista che se n'è andato, David Lynch, che diceva che l'arte non va capita. Ah, beh. La gente cerca di non capisce neanche la vita e vuole capirla. Beh, questo è verissimo, effettivamente, certo. Perché dire non capisco, per me non fa senso, capito, nell'arte. Posso dire, a me questo, non so, questo dipinto astratto non mi dice nulla, cioè non lo sento. Quello puoi dire non lo sento, ma non lo capisco, non c'è niente da capire. È vero. Per cui... Si ricorda, Cristina, quell'aneddoto quando abbiamo ricevuto quella telefonata dal Cile? Dov'è che hai esposto quella poesia visiva anche in Cile? Beh, poesia visiva anche fatta insieme al mio maestro Andreanni. No, ma anche quella con Bonito Oliva, non era? Bonito Oliva, sì, era un poeta visivo. Sì, ma c'è arrivata la telefonata, io ero in laboratorio da sola, perché fra le ore lei andava a riposare a casa, io ho ricevuto questa telefonata in spagnolo, che poi capivo quello che potevo capire. E cercavano uno dei manifesti che lei aveva già buttato via, perché abbiamo esposto nel Paraguay, Uruguay. Esatto, e poi io non si facevano foto allora, no? Eravamo un po' in un altro mondo, non c'era neanche il cellulare. E allora io ho scritto a questo poeta, organizzatore, se per caso avesse qualche manifesto salvato o qualche foto, e hanno detto che hanno distrutto tutto. Però dopo Mauro Capelliti ne aveva uno, mi pare, che gli è stato mandato, no, a loro? Mi pare che c'è stato anche quel... A me no. No, noi l'abbiamo mandato a loro. Ah. E loro lo cercavano e Mauro Capelliti ne aveva conservati. Ah, ecco. Perché poi alla fine questi lo volevano, ma poi la dittatura aveva eliminato tutto. Esatto. E allora poi abbiamo uno dei manifesti che io qualcosa avevo visto in piccolo. Sì, c'era il manifesto grande dove... No, erano interessanti, perché effettivamente lui poi Andreanni faceva l'astratto lì, no? Per cui, per esempio, era affascinato, io scrivevo delle poesie sull'atomo che affascinava, no? E lui faceva l'atomo, diciamo, come disegno, no? Per cui è stata una bella esperienza. Peccato che allora non avevamo capito che dovevamo noi conservare le foto, farcele nostre, no? Queste cose. È andato tutto... Perso. Sì. Insomma, comunque così, cioè, è stato bello perché praticamente in Paraguay e Uruguay, che sono vicini, facevano queste mostre internazionali, cioè partecipavano dall'Europa tanti paesi, oltre all'Italia c'era la Germania, c'era la Danimarca, c'erano diversi paesi europei. E alcuni ovviamente facevano tutto in inglese, che è quello che viene capito di più. E poi appunto c'eravamo, sì, dall'Italia c'era anche sto Bonito Oliva, c'erano diversi poeti visivi, sì, che poi appunto ci siamo persi di vista. Cioè, è un'esperienza che si fa, no? Da giovane. Eh sì, perché cosa vuoi, gli anni... Non so, gli anni 70. Sì, 80. Di sperimentazione anche. Sì, no? Esatto. E allora andava proprio, facevano anche le specie di happening, li chiamavano. Certo, no? Certo. A Capello, nel Trentino, facevamo il happening e c'era anche la Fedrizzi, sai, quella famosa nostra pittrice di Trento. E a Capello c'era un bel happening. E lì dove si esponeva sia poesia visiva che quadri, che cose del genere, insomma. Ecco. Tempi passati. Vabbè, è storia questa. Sì. È storia dell'arte. Sì. Assolutamente. Sì. Sì, infatti, perché alla fine, secondo me, in noi c'era ancora questa idea di quello che aveva Wagner, aveva definito Gesamtkunstwerk, no? L'opera d'arte totale, no? E lui infatti era il primo che aveva scritto anche i libretti per l'opera, che non è che sempre siano alta poesia, no? Però era il primo autore, musicista che l'ha fatto. Interessante. E noi pensavamo che pittura e poesia potessero unirsi, o comunque disegno più che pittura, no? Sì, comunque, dai. C'è una domanda ancora. No, io avrei un piccolo intervento volevo fare. Intanto complimentarmi per la presentazione anche con il figlio Cristo che ho conosciuto questa sera. E poi volevo dire sia Cristine che Renato che la lettrice Maria Pia Zanetti fanno parte della nostra associazione Lettera 7, un'associazione letteraria che ha 53 soci. Dislocati un po' in tutta la regione, da Merano fino a Borgo Valsugana. passando anche per Rovereto, Trento. E per noi è un onore avere la Cristina nella nostra associazione, perché ha portato, diciamo, lustro, e abbiamo pubblicato alcune antologie e sono state molto apprezzate, i testi sull'alberismo, sull'amore per la natura, e quindi ti stimano molto, siamo molto, per noi è un onore averti nella nostra associazione. Grazie. Comunque sì, sono belle, due belle antologie sull'alberismo. Il collegamento tra letteratura e natura. Sì, bello. Le ho. Ha visto passato. Ich wohne einen Stock unter Ihnen und Sie haben mich eingeladen. Ah ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass das alles nur in Italienisch. Ach Gott, ja, weil wir niemanden. Ich verstehe ja auch Italienisch. Gut. Aber darf ich bitte eines Ihrer Gedichte in Deutsch vorlesen? Ja, gerne, weil das ist ja das, was uns gefehlt hat. Jemand, der sie auf Deutsch liest. Weil ja, ich hätte es immer gemacht. Ja, das freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich bin wirklich gefreut. Ich habe die Bibliothek nicht gefunden, weil ich am Angela Nicoletti Platz gemeint habe. Die, dann bin ich mit dem Taxi hergefahren. So, zur Einleitung. Mir vicino di casa. Ein heimlicher Garten, wie ein lächelnder Ort, ein Fest voller Blumen, ein Leuchten, das singt, ein sanftes Umwerben, das den Zweifel bezwingt, ein Schweigen von Wesenheiten erfüllt, die auf glänzenden Schwingen durch die achtsame Wehmut gleiten. Wie ein Beten, eine heilende Opfergabe, ein fühlendes Deuten, ein sich löschender Sinn. Es gibt einen Ort in mir, wie einen schützenden, sicheren Schoß. Er ist warm, umfließend. Ihn umfasst kein Wort. Manchmal träum ich. Er umschließt mich in Wunschlosigkeit und trägt mich behutsam in ein weisendes Fort. Wunderbar. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie lesen würden, weil die hätte lesen sollen, hat im letzten Moment abgesagt. Deswegen. Das ist eigentlich gewohnt. Ja. Ja, mein Deutsch ist nicht genug gut. Jawohl. Willst du noch eins lesen? Werde ich auch heimgehen, oder? Ja, ja. Für mich. Nur für Sie. Ja. È la mia vicina di casa. Ja, ha preso un taxi per essere qua. Grande. Non trovava la strada. No. Io stavo andando nella biblioteca in piazza Angela Nicoletti, perché pensavo che fosse quella. Ach du liebe Zeit. Ja, so war's. 11 Euro. Wo das Wollen nicht erkennt, dass der Gipfel wieder weicht und dem Aufstieg Abstieg folgt. Dort nährt es seinen Niedergang in der gnadenlosen Zeit. Wo das Reich der Seligkeit untergeht im letzten Glanz, wo im ausgeraubten Land die Ruinen alter Tempel, nur verlassene Altäre ohne Heiligtum bewachen. Wo der hoffnungsscheuer Blick noch einmal nach dem Gipfel sucht, wo Ego von Arkadia träumt. Dort lenkt des Lebens Zauberhand das wechselnde Geschick. Ah, wunderbar. Das war wirklich ein Liberation. Ich hatte mir nicht erwartet, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. wären die richtige Leserin gewesen hier. Aber vielleicht mache ich noch mal was. Ne? Da, jetzt, wo ich es weiß. siamo vicine di casa e ci conosciamo da un po' di anni, forse sì, però appunto abbiamo scoperto poi, sa com'è, i vicini dicono buongiorno, buonasera per un bel periodo, no? Poi ci siamo conosciute meglio e lei mi ha raccontato, lei era diverse volte come, come si dice, in missione sociale nell'Afghanistan. No? Ci torno quest'anno. E poi appunto abbiamo parlato di varie cose, anche della poesia. Insomma, io non pensavo, la invito, però avevo paura che non potesse venire, perché comunque insomma abbiamo tutte e due ormai una certa età, no? Però mi ha fatto veramente un gran piacere questa sorpresa, ecco. Sono proprio contenta, ci voleva. Perché lei sarebbe stata un'ottima lettrice delle poesie. Sì. La teniamo presente. No, no, proprio, guarda, è stata una cosa, una sorpresa di quelle belle. Bene. Sì, sì, siamo contente. Bene. Poi... se non vuole dormire, andare a Colpina, vai. Mamma, dai. I fiori che ti ho trasmesso oltre. Grazie a tutti ancora per la vostra presenza. Grazie a tutti e grazie alla biblioteca che ci ha ospitato.